aquel hombre que encontrarí de noche en Via Gorizia, là sul navili, quando vivo, dorme sogni intranquilli e per strada gira in chirchin e mor a che l'on, ma che se sarà una magia che veniva sulla spalla della strada con la faccia un po' gialla e stranita, un dieci un po' stracca e un po' smor a che l'om, ma tessere ton om quater strash un po' d'ombra, nient'altro. No Giuseppe, no Giovan, neanche Walter e neanche adesso mi conosci il tuo nome. Che non a quel toc dei silenzi alla notte e anche a lui vorrei di in Via Gorizia che son mide per me e son no se stirò un senso.